luce che improvvisamente appare, retaggio di un pensiero poco fortunato, selvaggio come un animale, curve iperboliche tracciate nella memoria, metto in borsa gli ultimi nemici che ho, e a modo naturale. Io non la penso così, io mi sento diverso da tutto quello che ho intorno, indubbiamente così. È un mondo irreale, vorrei che mi stringessi fino a farmi male, fino a farmi male, fino a farmi male. Completamente stringimi le mani, stringimi le mani, fino a farmi male. Stringimi le mani, stringimi le mani così. Ti guarderanno così, mentre la paura ti assale, ti colpiranno dentro, fino a farti male, fino a farti male, fino a farti microcosmo, corpi della santità. Salto nell'ombra, cerchio nei miei brividi, buio più totale, caotico e bestiale, vorrei che mi prendessi fino a farmi male, nel buio più totale, caotico e bestiale, vorrei che mi stringessi fino a farmi male, fino a farmi male, fino a farmi male.